La Cicogna Nera. E sono le 20:57, giochiamo un po' di anticipo questa sera. Un saluto a tutti gli ascoltatori, siete collegati sulle frequenze di Radio Onda Rossa e la voce che vi parla è quella della Cicogna Nera. Come ogni settimana vi facciamo ascoltare un po' di musiche del mondo. www.ondarossa.info, il sito della radio, e se volete approfondire le nostre puntate che sono in streaming potete andare sul palinsesto, cliccare sulla puntata La Cicogna Nera e riascoltare le nostre trasmissioni quando volete. Questa sera una terra molto molto tormentata. Iroşere şergirane şervanin me serciyane jibo elat cam fedane ve beket agiri serfe buni agiri serhildani yek kurdistani ve beket agiri serfe buni agiri serhildani yek kurdistani serkeftin hevalo adam edilin ke نشان و سر خبونی و یه نیزی که سرکفتن هوالو آلام بلیم که نشان و سر خبونی و یه نیزی که آن کردستان آجین من آن سرکفتن آجین رن کردستان سر هلدانه جبو گلان سر خوابونه تول هلدانه هزار سالانه کردستان سر هلدانه جبو گلان سر خوابونه تول هلدانه امی آوا بکن و الاتن آزاد بوان رو جان بکن ام کارو خباد امی آوا بکن و الاتن آزاد بوان رو جان بکن ام کارو خبات سرکفتن هوالو آلام بلین که نشان سر خبونی و یه نیزی که سرکفتن هوالو آلام بلین که نشان سر خبونی و یه نیزی که آن کردستان آجین من آن سرکفتن آجین برین سرچیان به دستن کار کر او بندیان به تفنگاه و گر او اگیتان لگندو باجار او سرچیان به دستن کار کر او بندیان به تفنگاه و گر او اگیتان به دمک بگمان گل را بو سرپیان ام ناترسن خوی خارانو دا گر کرم ده دمک بگمان گل را بو سرپیان ام ناترسن خوی خارانو دا گر کرم سرکفتن هوالو آلام بلین که نشان سر خبونی وای نیزی که سرکفتن هوالو آلام بلین که نشان سر خبونی وای نیزی که آن کردستان آن جین من آن سرکفتن آن جیمرن آن کردستان آن جین من آن سرکفتن آن جیمرن آن کردستان آن جین من آن سرکفتن آن جیمرن دیو ها فتو کزی ها پوستو ال ترکو ال پرسیانو و الارابو سوپرا دی نوی می استوپیسکو دل دستینو که دیو ها ریسرواتو ای کردی. Ecco, questa popolazione martoriata, questa popolazione senza terra, è la musica, è il popolo di cui ascoltiamo questa sera. E queste parole arrivano dal più grande, forse, classico della letteratura popolare curda, che è di Ahmed Kani, vissuto tra il 1650 e il 1706, che con il suo famosissimo Memozin tratta soprattutto del tema dell'amore e della patria. Cana kur bir şevde, talı yer bir şevde. شهید بازی چیانو زنارم درا تکلی کازانی سفران ولد می حسب شهید بازی چیانو زنارم درا .6491750 è il numero della nostra diretta. Questi due brami che avete ascoltato in apertura della Cicogna Nera sono i Coma Ahmed. Coma, che in curdo significa semplicemente gruppo, mentre Ahmed significa Diyarbakir, una delle regioni, delle città, dei paesi più importanti nella Anatolia sud-orientale del paese, roccaforte, spesso delle decisioni del PKK o comunque dei ribelli curdi. Un grande problema del Kurdistan è stata la scrittura, non è la varietà dei dialetti che purtroppo deve così spartirsi a cavallo tra le regioni, tra gli stati in cui è inserito, ma proprio quello della scrittura. Non c'è proprio una letteratura scritta vera e propria, e questo così ha proprio agevolato la musica come mezzo preferito per trasmettere la storia, la poesia e soprattutto il sentimento politico. Questa che ascoltiamo sotto è Berfina Besta. Çarkı Besta, questa è Cargul. Ora andiamo ad ascoltarci un altro interprete, Sam Dean con Ser Sere. Shut up, man. şara zorin ket yere de ras vermey dami şara hap şara şara şara ilor mey dami şara hap şara şara şara severmey dami şara ras lega cep begere ilor mey dami şara cep lega ras begere severmey dami şara Sono le 21:15, siete all'ascolto della Cicogna Nera, questo era Sam Dean, anzi sicuramente Sam Dean con Serre sarà, ora andiamo ad ascoltare una bella voce, una grande voce che è nata ad Istanbul, però da una famiglia così che si è trasferita qui da Dersim, una che ha cantato anche con Ikoma Ahmed che abbiamo ascoltato in apertura e che così ha molto a cuore i diritti delle donne, Serap. Kucağıma kurbişe bütü, tan ujar bişe bütü. Kucağıma kurbişe bütü, tan ujar bişe bütü. Nemirine tedendi de, çiyan uzun aram bire. Zınaram biraz Tukuri kazadi Sıdana vela teymey Hesbe şehid bezi Çiyanu zınaram biraz Tukuri kazadi Sıdana vela teymey Hesbe şehid bezi Çiyanu zınaram biraz Ezdiçim yandı sakin Puçtibim yanzu hadibim Ezbite kat panizan Khevnu hayal hume bire Ezbite kat panizan Khevnu hayal hume bire Hesbe şehid bezi Çiyan uzun aram bira Tukuli kazadi Sıfrana vela teymey Hesbe şehid bezi Çiyan uzun aram bira Tukuli kazadi Sıfrana vela teymey Hesbe şehid bezi Çiyan uzun aram bira Serap Sönmez da Istanbul con Kulika Azadi, ci stiamo ascoltando. Ora è partita un'altra grande voce femminile che si chiama Gulistan Perver. In realtà non sono riuscito ad approfondire più di tanto la sua carriera, però si vede sempre accoppiata ad un altro grande artista che vi ho passato puntate addietro della Cicogna. Si chiama Sivan Perver e se la mia mente non mi tradisce arriva dal Kurdistan iraniano. Ci dice ancora Hamed Kani, com'è stato che i curdi sono stati privati dell'impero del mondo e sottomessi agli altri? I turchi e i persiani sono circondati da muraglie curde, ma tutte le volte che arabi e curdi si mobilitano sono i curdi che si bagnano nel sangue, sempre divisi, in discordia, non ubbidiscono l'uno all'altro. No, no. Quando la nostra disgrazia sarà consunta ed avrà fine, se noi fossimo uniti, questo turco, questo arabo e questo persiano sarebbero i nostri servitori, conclude Ahmed Kani nel Memozin, questa opera letteraria di valore artistico immenso per questa popolazione. Ora andiamo ad ascoltare una tra le voci internazionalmente più riconosciute, si chiama Aynur, precisamente Aynur Dohan, ed è così quella che è riuscita più ad esportare il suono curdo popolare e classico e a mescolarlo con altri ritmi, soprattutto dell'Africa. Rewend, che significa nomade, è il titolo di questo album del 2010 di Aynur Doğan, che arriva dalla provincia di Tunceli nel sud-est della Turchia e vive a Istanbul, classe 1975, per questa grande voce che in questo album appunto è nomade, si allontana dalla sua letteratura musicale e va alla scoperta di così soprattutto di altri ritmi sia dell'Oriente ma anche dell'Andalusia, con cui vedremo ci sono dei rapporti abbastanza stretti. Stili che provengono dal Caucaso, in particolare dall'Azerbaigian, dalla Persia, dal Mediterraneo e dal Medio Oriente. Canzoni che sono modernizzate, sono così reinterpretate in chiave moderna, con il flauto, con l'oud, il violino che si chiama il kemençe, il tambur, l'arpa e le tabla. Andiamo ad ascoltare un'altra traccia di questo Rewend, si chiama Dost Mame. Oh, حکیمی گرو گده تونه میرین حکیمی لبالا دلیم عوضالا خودی دا تاوی کی تاویان بهاری مهان گلانی نیسان وداری لسرسونگ مرم عوضالا خودی دا ند خورج ند باری احمد الله لتلی پیچیم نه آرموری و شمایه لسنگو بریم عودالا خودش ترا کشکو سرا و چمایه لبری قرانه پزی خود سردا کر که منی حمده خوش ترا دستور دایه احمد الله چوانه دم احمد کر باری ما دگن دم دلتی دا وزیدم اگدی کرابی منی چپلی میرا خدانی حفجنا حفت سالی وزی پیرا بالا خود دمی زوفر اگدرانت ندو دا احمد والو Probabilmente la canzone curda che più mi ha toccato così fino a questo momento si chiama Ahmedo ed è così interpretata magistralmente da Nizamettin Ariz, uno dei più grandi cantanti, compositori e anche filmmaker contemporanei del Kurdistan, classe 1956. E questo tipo di canto fa parte di uno così di un filone molto tradizionale in Turchia, che è quello del Deng Bey, che è una sorta di canto parlato in cui appunto avete sentito la voce solista che è melodicamente modulata e non ci sono particolari cadenze ritmiche soventemente, poi senza un accompagnamento strumentale così molto marcato. In genere sono composizioni, come avete ascoltato, tristi, assai lunghe, assai lente. Questa è Ahmedo, che in cui è stata anche così, in cui una versione è stata già passata qui alla Cicogna Nera di Haynur Dohan, è appunto una tra le più intense che si possono sentire in questa terra. Per quanto riguarda invece Haynur Dohan, vi parlavamo prima così del suo accostamento nell'album Rewind, anche al, oltre che all'Africa magrebina, anche al flamenco spagnolo. Questo perché così la musica curda, si può dire in due parole, proprio che è di tipo modale, e questo modo curdo assomiglia molto molto al modo dorico, così come quanto il flamenco spagnolo. Due sono le ragioni, a quanto pare una somiglianza può essere spiegata col fatto che l'invasione dorica dell'Ellade nel 1200 a.C. coincide con l'apparizione dei Medi, che sono un antico popolo iranico che appunto abitava queste zone iraniche, centro del Medio Oriente. E l'altro legame, oltre a questo legame storico, insomma, l'accostamento con il flamenco è data dalla passionalità che sta nell'esecuzione, che coinvolge completamente l'artista. In effetti proprio in Kurdistan non c'è distinzione tra la parola musica e colui che suona lo strumento. چین گرمابه نفچی مناو برطابه وردم بچین گرمابه نفچی مناو برطابه زوال بنده تما زوال بنده تما زوال بنده تما زوال بنده تما چما حیاره چما دل کریا بحر خما چما حیاره چما Scusate, intanto così ogni tanto succede qualche dilemma tecnico, è partito, si è interrotto anzi bruscamente Nizza Metinarez, che stavamo ascoltando con un'altra canzone, Zima o Cima Yare. E come vi ho detto, grande filmmaker che ha tenuto asilo politico a Berlino in Germania. E questa invece è un'altra grande voce di donna, Nilüfer Akbal. Sesi gitti şarka garba Koç giri başladı harba Sesi gitti şarka garba İki ordu asker geldi Dayanamadı bu darba Eredlo yeman yeman Çiyangır tuber fuduman Merabişin şahe merdan Ev dermane hem bu derdan Eredlo yeman Şin şahe merdan Ev dermane hem bu derdan Ovacın aşireti Zapt eyledi memleketi Ovacın aşireti Zapt eyledi memleketi Geriden imdat gelmedi Koza çekmedi gayreti Eredlo yeman yeman Çiyangır tuber fuduman Merabişin şahe merdan Ev dermane hem u derdan Eredlo yeman yeman Çiyangır tuber fuduman Merabişin şahe merdan Ev dermane hem u derdan bekar Murteza'ya, İkrar verenler elmaya, Zülfikar Murteza'ya. Geriden teller çektiler, biz uymayız eşkıya'ya. Eredin o Yeman Yeman, Çiyan gırtu berfu duman, Merabişin Şah-ı Merdan, ev dermane hem u derdan. Eredin o Yeman Yeman, Çiyan gırtu berfu duman, Merabişin Şah-ı Merdan, ev dermane hem u derdan. Di lo Yemen, avete ascoltato di Niloufer Akbal. Ora facciamo partire un'altra canzone che si chiama Dai, un altro gruppo, un trio se non mi sbaglio, che si chiamano i Coma Azad, tra i più famosi della nuova musica curda, che sono nati nel 1987 nell'alta Mesopotamia. Poi sono entrati nel 91 nell'MKM, che è il centro di cultura della Mesopotamia, fucina sicuramente della cultura curda. E così hanno operato dal 93 al 95 a Diyarbakir, fino a quando poi questa sede non fu chiusa dalle autorità e loro si sono trasferiti a Istanbul. Testi fortemente politici. Kederinde, ahim keserinde gelelim. Dile tebkül her du çavin teşirin. Dile minji mina dile tebk yeşu jana gırane. Dühündüre dile minde gura gura agire. Mina agire daşe çarane. Mina agire nava dile mazlume kuşi zindanan bilindi be. Agire dile min, mina agire nava dile zekiya. Mina agire nava dile rahşane bilindi bil ser beden usulan. Agire dile min, agire şoreşeye, şoreşa mezin gürd ve tüccaram ve namire. Min go me giri, huy kurbanım me giri. 21 quasi 45 minuti, vi ricordo che siete all'ascolto della Cicogna Nera, suoni dal mondo, suoni popolari contemporanei in onda ogni giovedì qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, siamo negli studi di San Lorenzo, stiamo approfondendo un po', stiamo ascoltando un po' di musica curda di questo popolo martoriato, vicino, spesso molto vicino per lungo periodo al genocidio da parte dei persiani, da parte degli arabi, da parte dei turchi, purtroppo così tre popolazioni, tre etnie molto importanti, molto potenti, con un lungo passato alle spalle, che non vogliono cedere assolutamente i loro territori, i territori su cui insomma si estende questa popolazione, questa terra a cavallo appunto tra queste tre grandi storie del passato. Questi sono gli Xero Abbas. في دنياي عادتك لو في نهار عادتك فراق كبير مكا في دنياي عادتك لو في نهار عادتك شكريا شكريا أما نما شكريا وي أما نما شكريا أباسك أني أي أما نما شكريا تلالا دليم شكريا سنكا وسكيما نمحكم وخيني ما وزيسي وقردي ما سنكا وسكيما نمحكم وخيني ما وزيسي وقردي ما شكريا شكريا أما نما شكريا وي أما نما شكريا أبا سرقانيا أما نما شكريا وي أبا سرقانيا گرکم هل ربانا گرک دل ما یک بانا دنیا هنگی و یا مبانا شکریا شکریا اما نما شکریا وی اما نما شکریا برفا بشه باریا سرد بولی بیم حلیا وی اما نما شکریا شکریا شکریا اما نما شکریا وی اما نما شکریا شکریا شکریا برفا بشه باریا سرد بولی بیم حلیا شکریا شکریا اما نما شکریا وی اما نما شکریا شکریا شکریا آوا سرگانیا وی اما نما شکریا شکریا شکریا اما نما شکریا دلالا دلیم شکریا ed è di un paio di giorni fa l'ultima notizia per quanto riguarda i territori curdi, questa volta riguarda la parte siriana, perché pochi mesi fa leggiamo su un sito che i curdi hanno preso il controllo di una serie di zone al nord del paese e hanno creato un esercito indipendente. L'obiettivo principale di questa creazione di un nostro esercito è la difesa dei territori del Kurdistan siriano da qualsiasi tipo di invasione armata, dalle truppe di Assad ai guerriglieri di gruppi islamici, viene detto nell'annuncio del Consiglio Nazionale del Kurdistan. Beh, insomma, i curdi così hanno paura anche degli stessi ribelli di Assad per un integralismo islamico. Forte Kurdistan. Kechan Kurdistan, loro sono i Bezer Sahin, e ora sotto è partito un altro così eclettico suonatore, cantante, artista curdo, così emigrato prima in Germania e adesso residente in Svezia, si chiama Civan Aho, A-O-Ako, e così riesce a mettere la folk music con lo stile occidentale, con il pop, il folk, e quella che andiamo ad ascoltare sotto in lingua madre, così come la chiamano loro, si chiama Ciao Bella, ed è veramente l'unica canzone della puntata che non ha nessun bisogno di presentazione. Ciao, ciao, ciao, no partizano, guarda il mio bebè, sber come una menisica, garco a sgumbrem, lo sciore scherno, lo bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, garco a sgumbrem, lo sciore scherno. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, bella, bella, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, abagulla, partizanico, boasa di amameria. Ho trovato un'altra versione di Bella Ciao cantata in curdo, ma questa è di Civan Aho, nato nel Kurdistan siriano, è davvero così intensa e particolare, molto particolare allo stesso tempo. A proposito di Siria, gli Stati Uniti e i paesi dell'Europa occidentale si sono dichiarati pronti ad offrire l'appoggio economico per la creazione dell'esercito curdo, che potrebbero, insomma, a loro modo ostacolare la diffusione dei musulmani radicali in Siria. Quella che ascoltiamo ora è Delil Dilanar. Hey, hey, hey. Dilanar con Darol, ci siamo ascoltati quando sono le 22 esatte. Sentiamoci ancora un altro 2-3 brani e poi lasciamo spazio a noi. Hey, no. Armank abbiamo ascoltato con Bang o Bang, la pronuncia esatta non lo so. E dunque, come strumenti musicali, sicuramente per quanto riguarda la cultura curda, che poi più largamente naturalmente quella di tutti i paesi limitrofi della cultura medio orientale, c'è il tambur o il saz turco, insomma questo liuto a manico lungo con una cassa somigliante al mandolino. Poi c'è il bizik, come si chiama, vi dico le parole in curdo, o buzuki, il kernete, se questa è la pronuncia, che nella vicina Armenia è più famoso e si chiama duduk, o almeno vi abbiamo passato anche un'altra versione di questo duduk che si chiama balaban, che invece fa parte della cultura azerbaigiana. Poi c'è il bilur, che invece è il gaval, questo flauto così aperto ad entrambe le estremità e che si suona soffiando su sulla diagonale di una sua estremità, e che è diffuso veramente in tutta la Turchia, l'Azerbaigian, ma anche nei nostri paesi più limitrofi nell'est Europa, come in Macedonia, in Bulgaria soprattutto c'è una grande tradizione di cavalli. Poi abbiamo il altri fluti, uno che si chiama shish o shishmal, e poi altre percussioni, la kuzele, il def, che invece è un po' più famoso, e il dahol, tutte queste percussioni che mettono insieme questa sonorità curda. Sotto ascoltate Dino con Civamin o Civanim, e ascoltate probabilmente anche un altro oboe che sicuramente, quasi sicuramente, è la zurna. Questo oboe così, che a differenza del duduk, che è un suono molto dolce, molto pieno di melanconia, è la zurna, un suono che ti entra dentro, che gli ottomani usavano così per aprire le loro campagne militari. Intanto è partita sotto la penultima canzone, hanno tutte e due lo stesso titolo, Nevroz. Il Nevroz, che è un termine che significa allo stesso tempo nuovo giorno, significa figlio o figli del sole, ed indica così la festa più importante e celebrata in Kurdistan, soprattutto dopo che è stata vittima così questa popolazione di grande genocidio e repressione limitrofa. La festa più importante è quella del Capodanno curdo, e si celebra, si è celebrata, si viene a celebrare sempre di più con questo evento la memoria, la fede, insomma la cultura di questo popolo, il Nevroz, che scatena la voglia di ballare, che festeggia, che scatena insomma la voglia di festeggiare, di essere fieri di questa esistenza. Insomma, il Capodanno della Mesopotamia è questo Nevroz che ci stiamo ascoltando sotto con i Brother. Skin Ed è partita l'ultima canzone quando sono le 22:10, questa volta è a cura dei Sei Texan, si chiama il Nevroz, lo potete vedere, sicuramente l'abbiamo visto qui nei scorsi anni a Roma, anche a cura della popolazione curda presente qui nella capitale, che soprattutto la ritroviamo nel centro socioculturale all'ex mattatoio che si chiama l'Ararat, un'associazione culturale appunto costituita da uomini e donne esuli del Kurdistan che dal 1999 gestiscono questo spazio all'interno dell'ex mattatoio, e qui ogni equinozio il 21 marzo potete molto probabilmente assistere alla più importante festa curda con i balli tradizionali, festeggiamenti e sicuramente i balli attorno al fuoco, il focolare che è così un elemento centrale nella cultura e nell'identità curda. La cicogna nera sta finendo, è finita qui, noi ci diamo appuntamento giovedì prossimo, super giù come sempre verso le 9. Ora finiamo di ascoltare questa canzone a cura, come vi ho detto, dei Sei Txan, e poi ci tuffiamo nel mondo ancestrale e pagano di In Noctibus Panis. Ciao, aglio. گیری لال سرچیان گوه بندی گری هرچیان گیری لال سرچیان گوه بندی گری هرچیان بلوچی چکن آداره بدنه مظلوم موزکیا بلوچی چکن آداره بدنه مظلوم موزکیا نوروز اگری آزادیه نوروز جشن آلتیش نجات پرستی هزار سالایه نوروز چاکوچه دست کوای حسن کاره نوروز لتیش ایخانت او خواسی پاریه برخدان ربری همدم مظلوم دوغانه نوروز ناوه یکی تیو سرهلدان گلی کرده نوروز ناوه شورشگر بریوان و روناهیه نمره نوروزی جشن و پیروز به کچولا و هون کرکم نورفی گیری لاکن کچولا و هون کرکم نورفی گیری لاکن خیلی یه لرخشان کن دیاری نشتمان کن خیلی یه لرخشان کن دیاری نشتمان کن نوروز نوروز نوروز کشنا کردستان کشنا کردستان نوروز ناوی بریوان روناهیل خوکر میوان بریاردان جدل جیجان سرهلدان کرنجیان بریاردان جدل جیجان سرهلدان کرنجیان